Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel mondo del cinema ci sono molte grandi produzioni piene di effetti speciali, con un cast stellare, con eventi collegati alla promozione. Poi magari vedi il film e rimani deluso per la pochezza della sceneggiatura oppure per la semplicità per la storia e a volte, soprattutto in certi film, per la scarsissima qualità degli attori. E poi invece ci sono film che con pochi mezzi e magari con attori semi sconosciuti riempiono le sale, ottengono un grande consenso di pubblico perché magari nel cast ci sono quei personaggi minori, i cosiddetti caratteristi, quelli che recitano poche battute e poi queste battute invece diventano un tormentone che viene ripetuto dalla gente fino a entrare nel vocabolario comune. Pensate a quante frasi e citazioni usiamo prese dai film di Totò, di Pozzetto, di Abatantuono e naturalmente di Carlo Verdone. Proprio in alcuni film di Verdone abbiamo conosciuto un attore che con poche frasi è diventato un simbolo del cinema e del costume italiano grazie a quella genuinità tipicamente romana che lo ha fatto diventare un personaggio. È un attore che peraltro ha una storia incredibile, ha recitato anche con grandi attori di Hollywood e che a dispetto dei ruoli cacciaroni e maneschi e viene da tutti ricordato come un uomo buono e gentile. Stiamo per raccontarvi la storia di Mario Brega. Ma insomma, me la fa o non me la fa, signore? Ah, signore, è fatta. Gliel'ho fatta. T'ha fatto male? Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male? Ah, giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è? E questa è una delle scene forse più belle che vengono ricordate di più di tutti i grandi film che ha fatto Verdone. La mano, quella che può essere vero o piuma, è quella di Florestano Brega, conosciuto come Mario Brega. Nasce il 5 marzo del 23. Il padre è Primo Brega, è un falegname con la passione per l'atletica che vince anche dei campionati tra gli anni 11 e il 22. Mario cresce in questa borgata assimilando tutte quelle sfumature che si imparano per strada, imparando magari anche a farsi rispettare tirando qualche ceffone, perché Mario quando diventa un uomo ha un fisico possente, ha un aspetto burbero. Siamo negli anni 60, il cinema va in cerca di quelle facce prese per strada, così per Mario Brega si aprono proprio le porte del cinema e iniziano le prime comparsate. Sono le classiche parti di contorno che magari hanno solo una posa, in cui magari non c'è neanche da dire una battuta, però comincia a lavorare con registi importanti come Pietro Germi, Nanni Loi, Camillo Mastro Cinque. Viene chiamato sempre per fare la parte del borgataro, di quello che fa pugni, e lo scopo è guadagnarsi la giornata e poter usufruire del cestino del pranzo e si mangia gratis. Insomma, siamo negli anni duri di questo paese. A lui il dannava faceva buffo, farmacia dappertutto. Poi cambiava zona. Andare a buffo, scroccare, non pagare era un modo di dire, citato dagli amici di Mario Brega che raccontano alcuni aneddoti per il mitico programma Stracult. E la vita di Mario è piena di aneddoti, di racconti, di storie, magari non tutte vere, a volte ingigantite come se fossero dei racconti popolari che si autoalimentano, che diventano leggende. E poi c'è la palestra, che serve per mantenersi in forma, si impara a fare a pugni, ma non come si fa per strada, si impara a usare la tecnica in modo che se ti chiamano in un film a fare una scazzottata sai farlo senza farti male e senza far male agli altri, cosa peraltro più probabile nel caso di Mario Brega. E così i film si moltiplicano. Nel 62 Dino Risi chiama Mario Brega per il suo capolavoro La Marcia su Roma, a fianco di Tognazzi e Gassman, dove lui interpreta Mitraglia, un fascista violento, cattivo, disposto anche a uccidere. E Brega non recita con la sua voce, viene ridoppiato perché la sua parlata di strada ha un accento troppo forte. Però in questa prima fase della sua carriera è il suo volto a parlare, è il suo corpo che sembra tagliato per fare, non so, il guardiaspalle, il poliziotto, come capita l'anno dopo nel film La Parmigiana di Antonio Pietrangeli. Buongiorno, Permette, Maciotti. Piacere, prega, che l'ho disturbata. No, stavo in laboratorio a sviluppare queste fotografie, ma ho quasi finito. Prego, non se vuole accomodare. Lei ha bandito un concorso di volti nuovi per film nuovi, sbaglio? Ah, sì, un paio d'anni fa. Le quote erano di 10.000 lire, sbaglio? Eh già, per le fotografie, spese di corrispondenza e di registrazione e presentazione delle foto a un... A un famoso regista di un'importante casa cinematografica in presenza di un notaio, sbaglio? Il falco e il gabbiano. Gli anni 60, lo abbiamo detto, sono gli anni d'oro del cinema. Brega gira 4-5 film all'anno e rimane sempre una comparsa, viene sempre doppiato, i guadagni non sono molti, però il suo volto è conosciuto, diventa una persona affidabile. È uno sempre disponibile che accetta i ruoli, le indicazioni dei registi, non si lamenta, non fa questione. Intanto a Cinecittà si sta inseguendo un nuovo filone sulla scia dei grandi film western americani, la nascita degli spaghetti western. Mario Brega viene chiamato da un regista che segnerà un punto di svolta nella sua carriera, Sergio Leone. E così è il momento di Chico, il personaggio che Mario Brega interpreta nel film del 64 per un pugno di dollari. È una parte da cattivo, ma lo stesso Brega racconta di essere stato scelto da Sergio Leone inizialmente proprio perché invece aveva la faccia da buono. Nel cast ci sono Clint Eastwood e Jean-Marie Volonté. Il film sembra una cosa da nulla, tanto che lo stesso Volonté in un'intervista rivela di avere partecipato senza troppa convinzione. Sto facendo un filmetto in fretta e furia per pagare i debiti. Figuratevi che un western italiano e si intitola Per un pugno di dollari. Lo faccio veramente per un pugno di dollari. Ma certo non può nuocere alla mia carriera. Mi hanno conciato come un matto. Sono irriconoscibile. E nei titoli di testa avrò persino uno pseudonimo americano, John Wells. Insomma, non corro alcun rischio. Chi volete che vada a vederlo? Si sbagliava, la gente va a vederlo e come? A questo proposito vi facciamo sentire una clip di Mario Brega che racconta il suo rapporto un po' complicato con Jean-Marie Volonté. Jean-Marie aveva un suo carattere. Vedi, Jean-Marie per me è una gran brava persona, ma siamo due poli differenti, lui è piemontese, io sono romano. Insomma, non sempre le cose filano lisce tra compagni di set. Come ha detto una volta Sergio Leone, Brega ha la faccia da buono, malgrado l'aspetto che può incutere timore. Solo che, come tutti quei personaggi che sono cresciuti sgomitando per strada, guarda la vita con una, come dire, diffidenza di partenza, che certo non aiuta le relazioni personali. Poi c'è la passione per il poker che unisce tutti questi attori. Le partite a carte, quando nascono discussioni, possono anche finire a botte, come ricorda Carlo Verdone. Lui giocava a poker, per esempio, per qualche dollaro in più, con Volonté, Pistilli, Lee Van Cleef, eccetera. A una certa ora Lee Van Cleef si ubriacava, quindi lui lo prendeva e diceva: devi andare a dormire, che domani c'è i primi piani. Io lo buttava sul letto a Lee Van Cleef, che nel film sembra uno schiavo pistolero. E Volonté una volta non voleva pagare a poker e Mario Brega ha ammenato. No, ne ha menati tanti. Quindi, ricapitoliamo: 64 per un pugno di dollari, 65 per qualche dollaro in più, 66 il buono, il brutto e il cattivo, la trilogia di Sergio Leone. Oltre a Clint Eastwood c'è un attore che ha un ruolo fisso, Mario Brega, che ormai è diventato un amico di Sergio Leone, che ha condiviso con lui l'avventura degli spaghetti western. Ma la carriera cinematografica di Mario Brega non si ferma certo a questi tre film, perché comunque certi caratteristi, con i loro eccessi, la loro presenza ingombrante, la loro capacità di prendere e di dare sberle, sono necessari al cinema più di quanto si possa pensare. Sono attori che magari dicono poche battute in un film, ma che però diventano le battute chiave, quelle ripetute dalla gente, diventano parte del nostro tessuto culturale, di noi italiani, che siamo sempre alla ricerca di eroi semplici, veri, che un po' ci assomiglino. Dal 67, l'anno del buono, il brutto e il cattivo, dobbiamo prepararci a un salto temporale di 13 anni. Arriviamo agli anni 80, è un periodo in cui Brega recita in 33 film, Steno, Corbucci, Comencini sono alcuni dei registi con i quali lui lavora, sempre in ruoli marginali ma con grande dignità professionale. Lui comincia peraltro ad avere una certa età, non è più tagliato al ruolo del picchiatore. Così all'orizzonte si affacciano altre situazioni, altri personaggi, e tra tutti quello del padre di un attore italiano che abbiamo già sentito parlare, un personaggio particolare che rimarrà nell'immaginario collettivo incasellando alcune battute che sono dei veri e propri colpi d'ala che sono entrate nella storia del cinema. Arugge sta a pensare un'altra cosa, ma come è uscito fuori tutto sto frasaglio ciancicato? Come mi ha detto prima, problematico. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Mario Brega, uno dei più famosi caratteristi del cinema italiano. È un uomo che ha girato almeno 70 film, che ha lavorato con i più importanti registi italiani, è diventato uno dei punti di riferimento per gli spaghetti western di Sergio Leone. Tipicamente romano, Mario Brega è Roma, è quella Roma, la sua parlata della borgata, che ha pronunciato battute che vengono ancora oggi ripetute e citate anche dai più giovani. Abbiamo fatto un salto temporale fino al 1980, ci siamo lasciati alle spalle Sergio Leone e siamo arrivati all'incontro con un altro grande regista e attore, Carlo Verdone. Marisol! Questo è Carlo Verdone in uno degli episodi di Un sacco bello, il primo film da regista dell'attore romano, un film diviso in tre episodi, dove Carlo Verdone presenta tre personaggi che lo hanno reso famoso all'inizio, e uno dei tre è Ruggero, il ragazzo hippie che fa parte della comunità mistica di Città della Pieve, e ve lo ricordate, il fricchettone che con la fidanzata va a trovare il padre. Ruggero ha questo padre che è Mario Brega, che ovviamente è completamente, come dire, di estrazione culturale completamente diversa dal figlio. Allora è vero che sei tornato? Sì, per qualche giorno, ma solo di passaggio. Come sei cambiato? Sì, forse dentro sono cambiato. Ma pure la voce ti è cambiata? Nemmanco la telefonata mi avresti fatto. Vabbè, da che c'entra spesso riallacciare un certo tipo di rapporti, cioè così, c'è abbastanza problematico. Abbastanza? Problematico. Ah, ma che qua fatto abbracciare un genere? Che te possono, però te faccio, sono sempre qua. E te, papà, da sto buono, da sempre questa mia sta violenza, da. E che maglia violenza questa? E che violenza, Ruggero? E dai, pianta, dai, che c'è gente su. Vabbè, andiamo, va. In questo film Brega ha veramente parecchi colpi d'ala. Poi c'è la scena ambientata nel salotto con i vari personaggi che sono sempre Verdone, personaggi che si alternano nel tentativo di convincere Ruggero a tornare a casa. È una scena che ha in lui un protagonista in grado di legarli tutti questi personaggi. Lui è una spalla perfetta che estrae dal cilindro alcune battute che rimangono memorabili. Lo sento, ma lei non dice niente. Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che? Tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma va un figlio così, senza una casa, senza una famiglia, con le pezze al culo, ai semafori a chiedere la posita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così, sa! So comunista così! E questa era una scena meravigliosa. La ragazzina era Isabella De Bernardi e lui reagiva veramente, insomma, il contrasto di due mondi che non potevano incontrarsi, che genera veramente una deflagrazione comica. Beh, a volte per aggiudicarsi una parte si fanno audizioni, provini, selezioni, e Carlo Verdone si trova a casa di Sergio Leone, l'abbiamo già raccontato di quanti due fossero legati, stanno parlando di alcune scelte per il film e improvvisamente accade qualcosa che vale più di 1000 audizioni, e qui si parla di vita vera. Un giorno vidi un omone entrare a casa di Sergio Leone e portare una cassa di melanzane, di zucchine, de aranci, de mandarini, de mele, de cose. Era una cosa. Questo era Mario Brega. Ah, Sergio, questi ti mandano amici miei ai mercati generali. Ti è, senti, guarda ste palanzane che so, guarda, guarda ste mele che so, queste vengono da Calabria, Sergio, pure aranci da Calabria. Era uno veramente potente come uomo, faceva pure paura. E io dissi, Sergio, secondo me è il padre di uno che parla così, non può essere questo. Guarda che bel contrasto. E beh, qui c'è tutto, c'è la fortuna di Brega che arriva al posto giusto al momento giusto, c'è la genialità, l'intuito di Carlo Verdone che capisce subito quanto Brega possa essere prezioso per quei mosaici bellissimi che sono i film di Verdone. Insomma, un incontro fortunato che diventa un modo per Brega di dare il meglio di sé. La reazione di Brega a questo premio è genuina quanto lui, abbracci e ringraziamenti come quando un bambino riceve il regalo più desiderato, così come è accaduto con Sergio Leone. Anche in questo caso inizia un rapporto di collaborazione e di amicizia con Verdone che durerà per altri tre film. Cuore mio, la speranza non costa niente. Nel 1981 un altro film con Carlo Verdone, Bianco, Rosso e Verdone, tre episodi, un tema comune, quello delle elezioni, e tre personaggi mitici: Furio, quello preciso, e Mimmo e il mitico Pasquale Ametrano. E in uno di questi episodi compare il personaggio del principe, il rozzo camionista, la cui mano può essere ferro o piuma, l'abbiamo ascoltato prima. Grande caratterizzazione di Mario Brega, questo camionista che incontra Mimmo, che era quello che doveva portare la nonna a votare da Verona a Roma. Nel film Borotalco poi Brega torna a essere protagonista, il personaggio è quello di Augusto, il rozzo padre della fidanzata di Verdone, che qui fa questo monologo che rimane celebre e che rimarrà alla storia come il monologo delle olive greche. Che, senti sto prosciutto che te, senti come dolce. Ho mangiato. Senti che sto prosciutto, t'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, che, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi. E no, ma dai, sono grechi. Sono buone. Come sono, di la verità. Sono greche. Alla fine di questo intervento sulle olive greche ci sono, come dire, le minacce del suocero al genero. In realtà sono prese da un episodio vero, una lite che lui aveva avuto con il protagonista di alcuni film, del film Buffalo Bill, eroe del Far West, con il protagonista Gordon Scott. Quindi in realtà Brega riesce a portare nel cinema quello che è un episodio di vita che doveva rimanere privato. Mi è molto, io riconto il fatto che mi è successo ieri. Mi ha detto, papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto? Capirebbe, mi si è allargato il cuore, io e mio figlio a Via Veneto, poi chi mi guardava. Mentre si stava a guardare la vetrina delle scarpe, passano tutti i giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi ci dico, a cornuto, bianco a cornuto! È venuto tutto spavardo, il più grosso, mi ha dato un cassotto in bocca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire a cornuto in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati a cornuto, alzati, gli ho detto. Pieno di sangue per terra, ettolitri. Non si è alzato, me lo so guardato, mi sono girato, mi sono risistemato la giacca, mi ho detto, papà, che è successo, mio figlio? Niente, due di passaggio. Mario Brega, che da un lato interpretava, incarnava quella romanità a volte esagerata, un po' cacciarona, e dall'altro aveva in sé quella parte popolar poetica che in qualche modo ci ha conquistato, e ha conquistato anche un grande come Verdone, che ne ha fatto un caposaldo all'interno dei caratteristi del grande cinema italiano. La carriera di Mario Brega termina un giorno di luglio del 94, quando a 71 anni lui viene colpito da un infarto. è una scomparsa che lascia un vuoto nel mondo di quel cinema italiano. Se ne va un altro di quei caratteristici, come era stato Bombolo, come era stato il Dogui, persone di cui abbiamo già parlato, persone che combattute con dei tic o con la loro presenza scenica hanno fatto grande il cinema popolare. Dopo i successi di con Carlo Verdone, Mario Brega ha recitato ancora, è tornato a lavorare anche con Sergio Leone in un film che è passato alla storia, C'era una volta in America. Al suo fianco le grandi star di Hollywood, e tra queste Robert De Niro, che conserva un ricordo molto positivo dell'attore romano. Probabilmente De Niro è uno dei pochi che Brega non ha menato. E quando mi sento solo, voluto trovarmi all'ospedale, ha detto: signori, prima il mio amico e poi parlo con voi. Quando mi ha detto: che regalo vuoi, Mario? Ho detto: una tua fotografia di Toro Scatenato. Lui ha mandato il segretario in America a prendermi questa fotografia di quando sta coi pugni così. C'è scritto in mezzo: a Mario all the best. E così per l'attore che viene spesso citato nelle canzoni, per esempio, dei rapper romani come il Piotta, le cui battute vengono ancora oggi ripetute da giovani e meno giovani, cala definitivamente il sipario. Una vita dedicata al cinema, rimanendo sempre attaccato alla sua borgata, alla vita della borgata. Un uomo che tutti ricordano per essere stato uno buono travestito da cattivo, uno che nel cinema si è fatto strada a suon di pugni e che nella vita invece ha conquistato tutti con la sua gentilezza e con i suoi abbracci. E noi abbiamo scelto ogni giorno di raccontarvi storie di colpi d'ala e vite straordinarie, e vi aspettiamo con altre storie, chiedendovi però di segnalarci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se voi conoscete una storia che pensate sia il caso di raccontare. E poi potete interagire con me, Facebook, Twitter, il sito di Radio 24, insomma, se mi cercate mi trovate. Ciao, a lunedì.